Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera parliamo di imprese italiane e imprese italiane nella competizione internazionale. Questo è il sottotitolo del libro Medie Eccellenti del professor Luigi Serio, che è qui con noi. Buonasera professor Serio. Buonasera. Luigi Serio è professore, docente di economia e gestione delle imprese all'Università Cattolica di Milano e ha curato questo libro, di cui ha scritto anche l'introduzione, dedicato appunto alle piccole e medie imprese italiane nella competizione internazionale. Piccole e medie imprese italiane che costituiscono un po' la spina dorsale della realtà italiana, gran parte delle imprese sono di piccola dimensione, ormai purtroppo abbiamo poche grandi imprese, e allora guardare a questa realtà e guardarle con un'ottica particolare, un'ottica direi così positiva, è certamente importante, guardare al fatto che, come scrive il professor Serio, esiste un modello italiano di media impresa. Cosa vuol dire, professor Serio? Il primo dato viene dall'esperienza. Io, andando in giro per il mondo, ho sempre visto le aziende italiane che competono, che lottano, che sono nei posti giusti, che attivano le collaborazioni e le relazioni giuste. Allora a questo punto mi sono chiesto, probabilmente queste aziende non compiono quotidianamente un miracolo, ma hanno dietro, diciamo, dei presupposti di creazione di valore e di vantaggio competitivo molto chiaro e molto forte. E allora da lì ho iniziato a guardare dentro questo panorama che noi indistintamente chiamiamo le piccole e medie imprese, ma dove dentro ci sono delle imprese che sono vocate al mantenimento e delle imprese che sono vocate allo sviluppo. E da lì abbiamo iniziato a capire qual è la differenza fra le imprese che sono vocate al mantenimento e le imprese che sono vocate allo sviluppo. Ecco, ma in questa prospettiva possiamo già fare una quantificazione sulle imprese italiane, quante sono quelle che hanno una dinamica positiva, quante sono quelle che hanno una dinamica difensiva? Allora, i numeri sono sempre delle belle espressioni, comunque Mediobanca sancisce questa categoria sulle medie imprese, che le chiama fondamentalmente le imprese del quarto capitalismo, e le attribuisce intorno a 3.000. Per me il campione è un pochettino più ampio, nel senso che secondo me 3.000 sono quelle pure, in realtà intorno ai 6-7.000 imprese, ci sono 6-7.000 imprese che competono in maniera abbastanza forte nei mercati internazionali. Qual è la loro caratteristica? La caratteristica di queste imprese sono le imprese che sono in una sorta di terra di mezzo. Che cosa significa? Sono imprese che non sono imprese troppo piccole, concentrate sulla famiglia o concentrate sul prodotto e quindi in qualche maniera dalla crescita asfittica, ma non sono neanche imprese che hanno abbandonato completamente i loro fattori di vantaggio competitivo, cioè sono imprese dove l'imprenditore è ancora molto presente insieme al management familiare, sono imprese dove c'è una gestione delle risorse umane non soltanto maternalistica ma molto vocata alla professionalità e allo sviluppo, sono imprese che sono inserite nelle piattaforme di innovazione e di internazionalizzazione a livello globale, non sono soltanto delle concentrate sul made in, cioè che producono in Italia e hanno dei punti di vendita all'estero. Ecco, ma in questa prospettiva i fattori tradizionali, l'impresa familiare, la tradizione, il gusto in fondo di un'innovazione incrementale, un'innovazione che si fa a piccoli passi, che non nasce dai grandi centri di ricerca, è ancora un fattore di base per l'impresa italiana, o ci sono altri fattori magari che non sono molto visibili ma che sono dei fattori che lei considera importanti per il vantaggio competitivo dell'impresa italiana? Allora, io credo che fondamentalmente quello che noi dobbiamo aiutare le imprese a essere presenti in maniera organica nei mercati internazionali. Essere presenti in maniera organica nei mercati internazionali non significa soltanto creare le condizioni perché loro vendano meglio, ma che se vuole è stata fino adesso la grande offerta che è stata fatta bene o male dalle istituzioni pubblico-private. Ma il vero tema è quella di aiutare l'impresa a radicarsi nel suo mercato di riferimento, risalendo, diremmo noi professori, a monte e a valle della catena del valore, cioè è nella parte di approvvigionamenti e nella parte di post vendita, anche perché è là, nelle azioni intorno al prodotto, che si crea valore, mentre il prodotto di per sé è destinato a un processo di commoditizzazione spinta significa che la capacità di creare valore attraverso soltanto il delivery del prodotto sarà in riduzione in prospettiva. Ecco, però c'è un concetto che un po' percorre il libro, che è abbastanza difficile trovare in altri manuali di management, diciamoli così, che è quello della bellezza. Il fatto che la qualità e la bellezza, tra l'altro è proprio questo il titolo dell'ultimo capitolo nella la qualità e bellezza della storia delle imprese, scritto da Giovanni Lanzone, ecco, la bellezza sia un elemento fondante. Di solito si pensa alla bellezza guardando alla moda, al massimo al design, ma è qualcosa che può essere ricompreso come elemento anche in imprese manifatturiere di tipo tradizionale, tipo meccanico, di tipo elettronico, per esempio? Assolutamente, nel senso che assolutamente sì, cioè nel senso che quello che il mercato si aspetta da un prodotto italiano non solo che funzioni bene, ma che sia anche ben fatto, e dentro il ben fatto, se vuole, dentro c'è un concetto di bellezza che nel caso di un capo d'abbigliamento si manifesta nell'estetica, nel caso di un macchinario si manifesta e con la bellezza estetica, ma anche con la sua funzionalità, con la sua ergonomia. Diciamo che è la caratteristica che hanno gli italiani rispetto agli altri competitor internazionali, che in questa dimensione di artigianalità hanno un livello di cura e di attenzione che è quasi un concetto fondamentalmente di bellezza. Ecco, ma questo concetto di bellezza come è sviluppato? Cioè, si parla molto del libro di risorse umane. Risorse umane vuol dire tante cose, e c'è un'attenzione nelle imprese italiane a quella che viene chiamata un po' la formazione continua, la capacità di rispondere a un cambiamento che in fondo all'interno della realtà competitiva delle imprese è un cambiamento che sollecita le imprese a una modifica, direi anche strutturale spesso, della loro dimensione. C'è questa attenzione? Osservando allora, appunto all'esterno il mondo delle imprese? In Italia c'è un'attenzione molto sviluppata alla dimensione tecnica tecnologica, e questo è il grosso della formazione continua, che in maniera formale o in maniera informale viene fatta dalle aziende, che viene fatta perché, diciamo, è l'elemento che mantiene la loro competitività a livello internazionale. Quello che oggi manca, per tutta una serie di motivi, ma fondamentalmente per un'attenzione molto particolare collegata a un business che fino adesso non lo aveva imposto, è di avere accanto all'imprenditore delle persone che siano capaci di combinare risorse e competenze tipiche delle aziende e proiettarle in un contesto internazionale, che se vuole è quello che fa l'imprenditore. L'imprenditore, certo, fa leva sulle risorse che ha lui a livello locale, sia i suoi dipendenti, sia la cultura, sia il sapere diffuso all'interno del tuo tessuto di riferimento, e fondamentalmente là fino ad oggi l'ha preso e portato fuori. Questa icona dell'imprenditore con la valigia, a cui dobbiamo tutti tanto, secondo me è un po' in declino. La cosa più interessante è oggi lavorare in una logica di sistema di competenze da inserire laddove ci sono le filiere globali internazionali. Sembrano tante parole, ma in realtà significa andare dove c'è il mercato e proporre un sistema di competenze che vada oltre la singola impresa e che ragioni in una logica di filiera globale di competenze. Ecco, questo può certamente aiutare la competitività e la presenza delle imprese, però c'è un problema, diciamo, all'origine, che poi interessa molte persone, che interessa molto soprattutto i giovani che guardano alle imprese, che guardano al mondo del lavoro. È il fatto che appare in fondo questi cambiamenti tecnologici come dei cambiamenti che distruggono un lavoro, che distruggono posti di lavoro, che rendono forse più competitive e più efficienti le imprese, però a scapito appunto della possibilità di creare dei posti di lavoro. Ecco, nel libro mi sembra che si sottolinei il fatto che bisogna guardare oltre, nel senso che ci sono anche nuovi lavori, nuove opportunità. La tecnica, la giustizia e la bellezza messe insieme possono dare una prospettiva positiva anche sul fronte, diciamo, quantitativo dei posti di lavoro. Possiamo dare una risposta almeno in prospettiva positiva, professor Serio, in questa dimensione? Sì, io da questo punto di vista sono abbastanza ottimista, nel senso che penso che è vero che ci sarà un'ulteriore distruzione di lavoro tradizionale, ma è anche vero che il saldo quantomeno per l'Italia potrebbe essere positivo, perché si stanno veramente formando nuovi lavori, si stanno formando nuove forme organizzative. Se guardate la nuova impresa, è un oggetto diverso, un oggetto che non è manifattura, che non è servizi, ma è una soluzione che integra entrambi, e da questo punto di vista secondo me queste sono le nuove aree interessanti di lavoro. Oggi in realtà quello che a me mi preoccupa di più è il fatto che non ci sia tanta nuova creazione di impresa. Voglio dire, il fatto che le imprese aprono e chiudono con buona pace gli imprenditori fa parte di un tasso naturale di ecologia, diciamo, di sopravvivenza da parte delle imprese. A me quello che mi preoccupa non sono le imprese che chiudono, ma sono le imprese che non aprono, e quindi da questo punto di vista lavorerei molto su questo fronte per evitare che la cultura manifatturiera italiana, che è molto forte, non trovi più i luoghi dove in qualche maniera applicarsi. Da questo punto di vista guardo bene tutte quelle forme che combinano competenze tradizionali della meccanica con per esempio le competenze ICT. Ecco, in questa prospettiva l'università potrebbe fare molto per dare spirito imprenditoriale ai giovani. In fondo si è abbassata la soglia di capitale necessario per fare delle nuove imprese, si parla di start-up tecnologiche, forse si parla tanto e le realtà sono meno di quante potrebbero essere. E in fondo l'Italia ha anche alla sua base un grande spirito imprenditoriale nel proprio DNA. Le università potrebbero fare qualcosa in più, concludendo la nostra riflessione, professor Luigi Serio. Diciamo che le università stanno imparando anche loro a essere un pochettino più imprenditoriali. È chiaro che quello che l'università deve rappresentare è fondamentalmente la punta dell'iceberg di quelli che noi chiamiamo di un hub di competenze, dove fondamentalmente attrazione di investimenti, nuovi lavori, competenze vecchie e attori consolidati che sono le imprese, cerchino di interpretare e di collocarsi all'interno delle nuove combinazioni di prodotto e servizio che si stanno formando a livello mondiale. È indubbio che se io oggi devo pensare a un'internazionalizzazione delle imprese negli Stati Uniti, penso molto più al capitale umano che è di supporto a far sì che accada qualcosa negli Stati Uniti che all'opportunità commerciale. Quindi da questo punto di vista il capitale umano sta diventando un fattore fondamentale di sostegno ai processi internazionali. E forse in questa prospettiva un po' di fiducia possiamo averla anche secondo sul nostro me futuro. Noi la possiamo avere perché abbiamo delle cose, certo. Quindi io partirei da quello che abbiamo, non da quello che dovremmo avere. Grazie. È un po' questo lo spunto del libro. Grazie mille anche per questa visione costruttiva, per non dire ottimistica, del nostro futuro. Abbiamo parlato con il professor Luigi Serio, che ringrazio, del libro Medie Eccellenti, le imprese italiane nella competizione internazionale, edito da Guerini e Associati. Sono 208 pagine per €21,50. Grazie anche a Paolo Corleoni in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.